get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Salve a tutti, eccovi di nuovo all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Io sono ancora Rosina e vi ricordo che questa trasmissione va in onda negli spazi autogestiti del Martedì Femminista. Si sente spesso parlare di notizie ufficiose, inattendibili, di notizie certe. Quella di cui vi informiamo ora appartiene all'ultima specie. Si tratta infatti di una notizia certissima, anzi ufficiale, dal momento che è stata diffusa da vari organi di informazione, prima fra tutti la RAI. Secondo una stima OCSE, in Italia la disoccupazione giovanile raggiunge livelli altissimi, di gran lunga superiori rispetto alla media europea, con un rapporto di non impiego per i laureati italiani pari al 28% contro il 10% degli altri paesi. Solo un giovane italiano su tre, e quindi il 30% del totale, trova impiego ad un anno di distanza dalla fine degli studi, mentre in altri paesi la percentuale varia dal 60 all'80%, come ad esempio in Germania. Il giornalista Luca Paolazzi, del Sole 24 Ore, ci informa inoltre che la percentuale di impiego si abbassa ancora di più se, oltre ad avere la sventura di essere giovani disoccupati, si ha anche quella di essere donne. E infatti, in questo caso, solo una donna su sei riuscirà ad impiegarsi nello stesso lasso di tempo. Per usare le parole di Paolazzi, si tratta di una discriminazione senza uguali. A caldo non si può non dargli ragione, ma questa è la classica punta dell'iceberg. Si tratta davvero di semplici discriminazioni? O forse il discorso va impostato su un altro livello, quello della distribuzione del potere? Allargando lo sguardo a livello mondiale, ad esempio, ci si accorge che in realtà le donne lavorano e lo fanno moltissimo. Dalla Conferenza Mondiale di Pechino abbiamo appreso che oltre il 60% delle risorse mondiali viene prodotto dalle donne, ma che la fruizione e i benefici di questi prodotti ritornano alle donne in misura irrisoria, circa il 3%. La stragrande maggioranza della popolazione femminile, tanto per continuare sulla stessa nota, non ha accesso alla scolarizzazione e quindi è analfabeta, schiacciata da consuetudini sociali e fattori culturali e di conseguenza impossibilitata ad accedere agli strumenti materiali e legali che le consentirebbero di modificare l'ordine dato. Oltre allo sfruttamento materiale del lavoro fisico mal retribuito e in moltissimi casi privo di compensi, le donne dei cosiddetti paesi in via di sviluppo subiscono un altro tipo di sfruttamento, quello del corpo, che passa attraverso la politica della discendenza, quella che assicura la perpetuazione della stirpe e della forza lavoro, che porta con sé la totale assenza del controllo delle nascite, dell'aborto autodeterminato, la mancanza di profilassi e di contraccezione. Queste donne lavoratrici, dunque, subiscono un doppio carico ed una doppia pressione, quella del lavoro esterno e il sobbarcamento della conduzione familiare e dell'educazione dei figli, sempre in condizioni pressoché di miseria, prive di sostegni economici e sociali, con un'assistenza sanitaria quasi nulla se non completamente assente. In balia delle famiglie del marito, merce di scambio tra gli uomini, queste donne si trasformano materialmente in dote e nel passaggio dalla casa del padre a quella dello sposo sono costrette ancora una volta a rinunciare ai loro pochi averi e alla loro dignità per trasformarsi in un chador nero, in una macchina per fare figli o in due braccia da sfruttare. Tutto questo tanto per parlare di discriminazioni senza uguali. Ma tornando alla civile Europa, certamente non troveremo gli abissi di miseria e di privazione del terzo mondo, ma sarà bene domandarsi dove finiscano le donne che non possono lavorare ed essere autonome. Quali sono le strade che obbligatoriamente dovranno percorrere? La prima sarà sicuramente quella del sommerso, del lavoro nero, sottopagato e senza garanzie minime, con salari differenziati, 10 a quel miserabile e 5 a te che sei più miserabile di lui e ti sta bene bene, altrimenti avanti un'altra. Oppure il matrimonio, strada obbligata per uscire dalla famiglia, salvacondotto verso una ipotetica libertà, in attesa di un impiego, dell'indipendenza economica. Ma poi verranno i figli, i sensi di colpa, e non c'è mai il tempo, e poi in fin dei conti non si sta tanto male, ce l'hanno insegnato per secoli. E poi sempre meglio che fare la puttana, così sì che ti tolgono l'anima, il corpo. Sei un pezzo di carne, ad uso e consumo di tutti, dell'uomo che passa o del tuo protettore. E una volta dentro non puoi più uscire, pena la morte. Ti levano fino all'ultima lira perché tu non abbia la benché minima libertà. Ti prendono a botte, ti annichiliscono, è come se non bastasse. Quando arriva la polizia, perché presto o tardi arriva, l'unica colpevole sei tu. E finisci su tutti i giornali, la tua faccia e il tuo nome su un milione di copie. Nessuno di questi onesti padri di famiglia è mai responsabile di niente. E fermiamoci qui, tanto per dare un esempio di come una discriminazione senza uguali possa trascinarne con sé molte altre, tutte parte di uno stesso disegno. L'unico modo per uscirne è l'organizzazione delle donne, la redistribuzione del potere in chiave femminile, per cessare di essere soggetto debole e divenire soggetto autonomo. Come? Valérie Solanas era pazza, alienata ed asociale, ma la chiave di volta l'aveva forse trovata: l'abbattimento dei governi, il rovesciamento dell'ordine dato, la distruzione della polizia. In una parola, scum. Società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, assolutamente nulla, riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Acaksa gözyaşların ellerime aksın dolacaksa gözyaşların. A liberare le donne dalla morsa maschile sarà dunque la distruzione totale del sistema basato sul lavoro e sul denaro, non il raggiungimento della parità economica dentro questo sistema. Sakla yüzünü, sakla yüzünü. Una vera collettività è formata da individui e non da miseri campioni della specie né da coppie, che rispettano l'individualità e il privato degli altri, che stabiliscono tra loro contatti intellettuali e affettivi, menti libere e rapporti liberi, e cooperano al raggiungimento di scopi comuni. Per i tradizionalisti l'unità di base della società è la famiglia, per gli hippie la tribù. Per nessuno di loro è l'individuo. Start yelling. Just what the yell. Che avete ascoltato era Michelle Shocked con I When I Grow Up. Ciao a tutte, io sono Claudia e vi vado a leggere delle considerazioni. È proprio vero, anzi, molto spesso la realtà supera la fantasia. Leggo su un quotidiano di qualche giorno fa un progetto per aiutare le donne del Bangladesh. Il titolo che compare sulla 16ª pagina in basso a destra è così invitante che non pare vero. Leggo. Da qualche anno nel Bangladesh si è diffusa un'orrenda forma di vendetta verso le donne. Fidanzati respinti o mariti insoddisfatti della dote sfigurano con acido solforico le proprie compagne, facendone dei mostri a cui poi non rimane altra possibilità di vita che restare segregate in casa. Mi domando com'è possibile che questo sia il problema più grosso di tutta questa violenza. Come se, per esempio, in tutti i casi di stupro, i problemi fossero solo le tracce estetiche della violenza. L'articolo poi prosegue con la notizia che ha fatto seguito a questi eventi. Il COPI, un'organizzazione non governativa, presenterà al Parlamento europeo e al Ministero degli Esteri il progetto di aiuto, consistente in una struttura di pronto soccorso sul territorio. L'aiuto consisterà nel mandare dei medici a fare un corso di specializzazione di chirurgia plastica. Ciò vuol dire che andranno a fare tirocinio? Andranno a sperimentare? Non si parla di esperti, quindi... Se un'operazione va male, che responsabilità hanno rispetto ai risultati sul viso o meglio all'integrità psicofisica di quelle donne? A tal proposito voglio ricordare la sperimentazione fatta oltre 20 anni fa sulle donne indiane alle quali veniva applicata in maniera coatta la spirale. Dopo, tranquillamente, è stata introdotta in Occidente. Quindi le donne indiane usate come porcellini d'India e quelle del Bangladesh? Penso comunque che in Bangladesh le donne che rifiutano il loro ruolo tradizionale costituiscono un vero pericolo per quel tipo di società, così come per il resto del mondo, configurato da sempre con il dominio del maschio sulla donna. Infatti le donne oggetto di questo tipo di violenza sono quelle che rifiutano i matrimoni combinati, quelle che si pongono come soggetto autodeterminato e rompono la tradizione millenaria che le ha volute sempre schiave e dipendenti dai maschi. A tal proposito vi leggerò qualche stralcio dal saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica di Adrienne Rich. Comandare o sfruttare il lavoro al fine di controllarne i prodotti, attraverso l'istituzione del matrimonio e della maternità come produzione non retribuita, il relegamento ai livelli più bassi nel mondo del lavoro retribuito, la lusinga ingannevole della donna simbolo che ha fatto carriera, il controllo maschile sull'aborto, la contraccezione e il parto, la sterilizzazione forzata, il lenocinio, l'uccisione delle bambine che priva le madri delle figlie e contribuisce alla svalutazione generalizzata delle donne. Tenerle confinate fisicamente e impedirne la libera circolazione, attraverso lo stupro come mezzo terroristico per impedirne la libera circolazione per le strade, il purda, la fasciatura dei piedi, l'atrofizzazione delle capacità atletiche delle donne, codici di abbigliamento femminile dell'alta moda, il velo, le molestie sessuali per le strade, il relegamento ai livelli più bassi nel mondo del lavoro retribuito, la norma prescrittiva ad essere madri a tempo pieno, la dipendenza economica forzata delle mogli. Usarle come oggetti di transazione maschile, l'uso delle donne come doni, il prezzo della sposa, il lenocinio, i matrimoni combinati, l'impiego di donne come intrattenitrici per facilitare gli affari maschili, cioè la moglie padrona di casa, le cameriere ben vestite per il titillamento sessuale maschile, ragazze squillo, conigliette, geishe, prostitute di Kinsang, segretarie. Avete ascoltato Strange Love di Kick la Luna, siete sempre con il CLR sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, sono Caterina e oggi volevo parlarvi della divulgazione scientifica. Caro Piero Angela, la tua divulgazione ci ha aperto un mondo. Finalmente sappiamo anche noi di essere zebrate, perché c'è il bianco e il nero, naturalmente, ma ci sono anche dei grigi con varie sfumature. Leggiamo a pagina 302, capitolo La sessualità, della rivista Viaggio nel mondo degli animali a cura di Piero Angela, supplemento di Repubblica. Quando si dice che è scientifico, vuole dire che è super partis, vuole dire che non c'è niente di politico o di manipolativo. Ed infatti vi vogliamo riportare la storia di Yellow e Sumi, due uccelli maschi della stessa nidiata, che quindi, come dice Piero Angela, si conoscevano intimamente fin da giovani. Diventando adulti, formarono una coppia anormale. Brutta razza di incestuosi. Eh già, i due carini, seguendo l'onda delle unioni civili, chissà se si erano iscritti in qualche registro comunale, sceglievano le pagliuzze per il nido, che poi graziosamente costruivano, lo difendevano da altri uccelli e, come nell'amore omosessuale umano, mo, uno di essi si comportava da maschio, l'altro da femmina. E chissà se spolverava, nella disquisizione scientifica questo non è specificato. Ma non si sa. Yellow, comunque, era il maschio, Sumi faceva la femmina, infatti stava più tempo in casa. Frequentemente si corteggiavano. Sì, rose, profumi, cioccolatini al verme. Già, proprio così. E dopo, naturalmente, si accoppiavano. Perciò Yellow, come di consueto, saltava sopra Sumi, mentre lui, Sumi, abbassava la testa e... beh, vi lasciamo immaginare. D'altra parte, quando Sumi rimaneva da solo, si comportava esattamente come un maschio. Eh sì, fumava il sigaro, giocava a poker con gli amici e talvolta lumava le passerine. Già. Tanto che a volte, con successo, si accoppiava con una femmina spaiata. Beh, anche se era confuso, insomma, bisogna ammettere che rispettava il sacro vincolo del matrimonio e della famiglia. Certo, non c'è dubbio. Andava tutto d'amore e d'accordo, fino a che... a titolo sperimentale, santa scienza, dopo 4 settimane di luna di miele, nel loro nido furono poste 3 uova di altra specie. Loro, veramente tolleranti e contro le diversità, e diciamola tutta, avrebbero volentieri adottato un bimbo di colore. Certo, che altro potevano fare? Si misero a covare. Naturalmente Sumi passava più tempo nella nursery e tutti e due difendevano con maggiore vigore il loro nido. Scacciavano anche Saru, nota lesbica della comunità, chiaramente lesbica nata a Kanikati. 2 uova si schiusero pure, ma nessuno diede loro il latte in polvere e così i 2 piccoli perirono. E del resto si sa, dalle coppie anormali non viene mai niente di buono. Il tragico epilogo della vicenda è che, sempre in nome della scienza, in coscienza li separarono e finalmente si sono ravveduti. Era ora. E già, si riaccoppiarono infine secondo natura. Questa sperimentazione è stata portata a termine circa 30 anni fa dall'ornitologo giapponese, attenzione al nome, Katsuji Tsuneki. Ma non finisce mica qui. Dalla penna di Piero Angela, La varietà dei rapporti. Leggiamo a pagina 305. Il comportamento sessuale può essere scomposto in 2 principali elementi. Uno riguarda le modalità di espressione, l'altro le preferenze. Dalla combinazione dei 2 tipi di comportamento e dei 2 tipi di tendenze risultano varie forme di rapporti sessuali. Se ci soffermiamo su quelli possibili per il maschio, perché quelli della femmina possono essere dedotti per analogia, naturalmente, risultano le 3 seguenti combinazioni. A. Maschio con comportamento maschile e tendenza eterosessuale, con femmina con comportamento femminile e tendenza eterosessuale. B. Maschio con comportamento maschile e tendenza omosessuale, con maschio con comportamento femminile e tendenza omosessuale. C. Maschio con comportamento femminile e tendenza eterosessuale, con femmina con comportamento maschile e tendenza eterosessuale. È interessante rilevare che nell'ampia casistica nota tutti i casi teoricamente possibili sono stati descritti, anche se alcuni con frequenza estremamente rara. Cito solo, come caso decisamente singolare, si tratta della combinazione C, quello di una coppia di tetraoni dal collare Bonasa umbellus, ove sia il maschio sia la femmina, mostravano comportamento invertito. In questo inconsueto rapporto eterosessuale, il maschio faceva cioè la parte della femmina, quest'ultima quella del maschio. Ehi ragazze, ma voi a quale lettera appartenete? A, B o C? Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è lo zio Tobia, ia ia o, c'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia o. Ciao, sono Lucilla e stasera andiamo con la solita rubrica Curiosità dal mondo. Ancora una volta rimaniamo strabiliate dalle disinformazioni diffuse dai mass media di Stato. Domenica 4 ottobre si sono scomodati dall'autorevole Telecamere Salute che trasmette su Rai 3 dal Parlamento. Deve essere proprio molto importante imbonire le donne e raccontarci quindi un mucchio di fandonie per mantenerci in balia del sistema di potere. In quella sede è stato intervistato il professor Gennazzani, segretario dell'Associazione Internazionale Menopausa. Il Gennazzani, con tono paternalistico e accattivante, come quello che si usa con i bambini, ha consigliato alle donne in premenopausa di trovarsi un medico per amico, forse guarda troppo la TV, che le possa accompagnare nel difficile passaggio, soprattutto per parlarci, eccetera. Come al solito, i ginecologi maschi dipingono le donne come delle imbecilli che non sanno gestirsi. Altro consiglio dell'esimio professore è quello di prendere ormoni ovarici. La motivazione è semplice: le donne ne hanno avuti in circolo per 35-40 anni, quindi è bene continuare. Ineccepibile il presupposto scientifico. Cosa succede a livello del metabolismo o altro, non si sa e non importa. Del resto, i valori che ci impone la società dei consumi sono legati alla riproduttività o alla bellezza, attributi funzionali al sistema creato dagli uomini per dominare e servirsi delle donne. La questione della prevenzione è stata invece liquidata in due parole: tumori e osteoporosi e quindi visite mediche ricorrenti. Questa è diagnosi precoce. Se vogliamo parlare di prevenzione, dobbiamo affrontare la questione della qualità della vita, del benessere, dell'alimentazione adeguata, dell'ecologia, dei ritmi di lavoro, dell'autogestione. Cari onorevoli, consigliate al professor Gennazzani di occuparsi di andropausa prendendosi una forte dose di testosterone. Altra notizia. Se Monica Lewinsky fosse stata lesbica, avrebbe corteggiato Hillary? Forse perché sono lesbica, mi viene da ripensarlo così il tormentone di quest'estate, che anche in autunno non ci dà tregua. Del resto in autunno partono le sfilate della primavera-estate e pare che quest'anno la lesbica si porti molto, a giudicare almeno da quanto si legge sui giornali a grande tiratura. Dopo la presentazione del pubichini, come non sapete cos'è? Ma è semplice, la mutanda da bagno che para due o tre peli, gli altri si tolgono. Dicevo, dopo il pubichini, che devo ancora decidere se ordinarlo adesso o con i saldi, arrivano in passerella due modelle che se la spassano in pubblico. L'articolo racconta del bacio saffico e mica solo sulla bocca. Allora, quest'estate andrò molto di moda. Non ho ancora capito se devo modificare il modo di vestire oppure probabilmente andrò bene così. L'importante è essere lesbiche. Non immaginavo che nel 1999 avrei fatto trend. Bene, allora tornando al tormentone, penso che se Monica fosse lesbica e la First Lady ci stesse, nel 1999 non ci sarebbero problemi. Per quest'anno farebbero bene tutte e due a mandare Bill all'altro paese. The future. Ed è proprio vero, non è mai abbastanza, Melissa Etheridge, never enough. Gli appuntamenti. Il 3 e 4 ottobre scorso si è riunito a Bologna il Forum delle Lesbiche. In quell'occasione sono state prese due decisioni: sciogliere il forum e destinare i fondi ricavati dalla terza settimana per finanziare iniziative di lesbiche. Ci auguriamo che siano privilegiate le proposte di tipo separatista, che più difficilmente accedono ai finanziamenti. Proseguono i lavori inerenti il progetto Casa Internazionale delle Donne. L'edificio del Buon Pastore attualmente è in via di ristrutturazione. Durante l'assemblea del 2 ottobre si sono definiti gli spazi logistici all'interno dell'ex ristorante Benito, dove il CFS e l'AFFI continueranno la loro attività in forma ridotta fino a che i lavori di ripristino del complesso non saranno terminati. Vi ricordiamo che potete ancora trovarci in via della Lungara 19 il lunedì dalle 20.30 alle 23 circa. Il 31 ottobre e il 1 novembre si terrà a Milano, promosso da Arcilesbica Nazionale, un convegno sulla sessualità. Il primo giorno sarà dedicato all'erotismo tra sesso sicuro e sadomaso. Il secondo sarà sulla transessualità. Per informazioni, rivolgersi il lunedì, il martedì e il giovedì, dalle ore 21 alle ore 23, al numero di telefono 02 89 40 86 71. Vi informiamo che ogni secondo giovedì del mese, dalle 20.30 a partire dall'8 ottobre, alcune puntate della nostra trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, verranno trasmesse da Radio Sherwood di Padova. Per noi è un motivo di grossa soddisfazione, in quanto si tratta di una prima esperienza di collaborazione con altre donne lesbiche che svolgono questo genere di attività. Ed è inoltre anche un'occasione per allargare i nostri confini, dal momento che Radio Sherwood copre una discreta fascia territoriale. Perciò, per quelle che di voi dovessero trovarsi al nord nei prossimi giorni, elenchiamo le modulazioni di frequenza per poterci seguire anche in trasferta. Per Padova e provincia, 97.800 MHz. Per Montebelluna, Treviso e provincia, 93.350 MHz. Per Mestre, 100 MHz. Per Venezia, 97.900 MHz. Per Rovigo, Ferrara e Bassa Padovana, 104.300 MHz. Per Belluno e Feltre, 107.500 MHz. Ringraziamo inoltre Elisabetta di Arcilesbica di Padova, la cui collaborazione ha permesso la realizzazione di questo progetto. E vi ricordiamo che se qualcuno di voi fosse al corrente dell'esistenza di radio autogestite da donne interessate a collaborazioni di questo tipo, può farcelo sapere telefonando a Radio Onda Rossa durante la trasmissione, oppure telefonando o scrivendo al Coordinamento Lesbiche Romane presso il Buon Pastore, via San Francesco di Sales 1A, di cui vi ricordiamo il numero del telefono fax 6864201. Everybody, if you can hear me sing, you can sit there and listen, or you can do that boogie thing. Feels good to move your body. You can dance in great delight, and you know tomorrow I ain't promise. Go for it tonight. Tomorrow I ain't promise. No needin' being shy. tomorrow. You don't know if you will live or if you die. Oh, what you waiting for? You go for it tonight. Just stand up and stomp. There is no wrong or right. Tomorrow ain't promised. Tomorrow ain't promised. No, tomorrow ain't promised. Tomorrow ain't promised. I said tomorrow ain't promised. Go for it tonight. Go for it now. Go for it. Forget about the fat. Hold down these petty holes. Kick off these hurting pumps. Gonna let my hair go back. I'll walk till daylight comes. Stomp it on the right. Do the same on the left. Or take your time, honey. Don't you hurt yourself. Dance on the table till you reach another height. You go, girl. You go, girl. Go for it tonight. Tomorrow ain't promised. Avete ascoltato Tomorrow and Promised Sapphire. Vi ricordate le 180 donne violentate in maggio a Giacarta? Ve ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione. Oggi leggiamo sui giornali un tragico proseguimento di quella tragedia, dove neanche a dirlo, chi ne fa le spese è sempre una donna. Marta Dinata Ariono, un'attivista diciottenne impegnata nell'aiutare le altre 180 donne di origine cinese oggetto degli stupri etnici, sicuramente operate dai militari indonesiani, è stata sgozzata. Sul suo corpo sono state trovate numerose ferite da arma da taglio, prodotte con lo stesso coltello usato per tagliarle la gola. Molte altre persone che stanno lavorando al reinserimento sociale delle donne violentate o che indagano per accertare le responsabilità su quelle violenze, continuano a ricevere minacce di morte. Nonostante questo clima, molte donne di varie etnie e classi sociali hanno manifestato davanti al Ministero della Difesa, ottenendo la promessa dell'istituzione di una commissione indipendente d'indagine sulle violenze sessuali. Questo accadeva a giugno. A ottobre è stata barbaramente assassinata la giovanissima Marta Dinata. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. They say I'm doing you wrong. Don't worry, 'cause I'm right here at home.